306. Scaloppine di vitella di latte in tortino. Vitella di latte magra senza osso, tagliata a scaloppine sottilissime del peso, nette dalle pelletiche, di grammi 300. Lardone a fettine sottili, grammi 70. Sciogliete al fuoco, in una cacciaruola proporzionata, un poco di burro, e sul fondo e all'ingiro della medesima distendete il lardone, sopra il quale collocherete un primo strato di scaloppine, condendole con sale e pepe e l'odore delle spezie, parmigiano grattato e prezzemolo tritato. Poi un altro strato di scaloppine condite nella stessa maniera, e così di seguito finché avrete roba. Sull'ultimo strato di scaloppine spargete diversi pezzetti di burro e cuoceteli tra due fuochi, più sotto che sopra, finché restino quasi asciutte e rosolato il lardone. Versate il tortino sopra a uno strato di spinaci tirati al burro e servitelo a quattro persone.